Quello che accade stasera è molto particolare perché io avevo un messaggio preparato per noi e poi ieri, nel mio tempo di preghiera, che di solito prendo in maniera anche più specifica prima della predica, Gesù ha cambiato tutto. E dopo che tu hai avuto una settimana difficile, no? Un po' complicata come la mia, e hai un programma a cui tu sai che va bene, e poi cambia un po', no? Per se sei come me, questo ti mette un po' di agitazione, non ti piace, i fuori programma non mi piacciono, no? Le persone che mi sono vicine ridono perché sanno che i fuori programma non mi piacciono, però io sono convinto che Gesù è vivo. Gesù è vivo e io non lo so perché lui ha voluto cambiare quello che io avevo pensato di dirti. Ma io so che lui è vivo e so che lui sapeva che tu stasera saresti stato qui, che tu stasera saresti stata qui e lui sapeva quello che lui voleva darti. E questa sera lui vuole equipaggiarti perché lui ti vuole portare da un'altra parte. Lui ti vuole portare da un'altra parte, io sono convinto di questo. E siccome lui vuole portarti da qualche altra parte, questa sera il messaggio sarà più interattivo del solito. Non sarà qualcosa che io dirò, che può essere bella, può essere brutta, può essere divertente, può essere simpatica, ma sarà qualcosa che noi vivremo insieme. Siete pronti? Siete disposti a viverlo insieme? Mi piace questo vostro zelo. La prima cosa che Gesù ha messo nel mio cuore di dire a te stasera è che lui vede la tua vita così diversa da come tu la vedi. Tu hai un'idea della tua vita, ma Gesù la vede diversa. Gesù la vede diversa. E questa sera lui vuole aprire una finestra affinché tu possa vedere quello che lui vede, affinché tu possa accettare quello che lui vede, affinché tu possa dire, non è quello che vedo io, ma è quello che vedi tu. E lui ha il meglio per te. E io so che tu stasera non vedi il meglio per te. Tu ti sforzi di leggere la Bibbia quando lo fai, ma non lo vedi il meglio per te. E io prego che noi questa sera usciamo da questo posto sapendo che lui vede la tua vita così diversa. Amen. Grazie Pino. Grazie Pino. Isaia, il profeta Isaia, molto tempo prima che Gesù arrivasse su questa terra, così lo descrive. Al capitolo 25 lui dice che Gesù annienterà per sempre la morte. Gesù è vivo. Lui ha annientato per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Il Signore Gesù toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. E in quel giorno, quando Gesù verrà e quando Gesù sarà vivo nel nostro mezzo, si dirà, ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esaltiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. E Paolo, l'Apostolo Paolo, continua scrivendo ai Corinzi e dice, la morte è stata sommersa nella vittoria. Gesù è vivo perché lui ha sacrificato la sua vita per vincere la morte. E quando lui ha sacrificato, lui ha vinto. E questo è un concetto strano per noi, perché a noi non ci piace la parola sacrificio, perché ci fa un po' soffrire, no? È un po' che scende come le pillole dell'antibiotico, no? Che sono grosse, che quando le devi prendere, le devi, no? Ci vuole molta acqua per ingoiarla. Così è un po' il sacrificio per noi. È una pillola un po' grossa. Gesù ha sommerso la morte con la vittoria. Lui è vivo. O morte, continua l'Apostolo Paolo, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. E io so che forse noi guardiamo la nostra vita stasera e diciamo, c'è questa cosa che è così grande per me, che è così difficile, che vince sempre. Che vince sempre. E io non riesco a vincerla. e io sono stanco di provare a vincerla, perché io non ce la faccio più e nessuno mi può aiutare. L'apostolo Paolo continua e scrive: ma ringraziato sia Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, che è vivo. Gesù è vivo. E io prego che tu possa sperimentarlo stasera, che tu questa sera possa scegliere di far entrare quel Gesù che è vivo, perché lui ha vinto, perché lui vuole farti vincere, perché lui è il meglio per me, per te e per me. Gesù ha sacrificato la sua vita e ha vinto. Così tu, così tu, così tu puoi sacrificare la tua vita, puoi accogliere quel sacrificio che Gesù ha fatto per te e vincere. Voglio condividere con voi una storia che andremo a leggere dal Vangelo di Giovanni, che ho condiviso con il gruppo di Mottola martedì. Ed è una storia che ci parla di una donna che stava messa male, stava messa molto male, stava male. Ma lei alla fine ha vinto. E quando lei ha vinto, non ha vinto solo per se stessa, ma ha vinto per un'intera città. Ed è questo quello che Gesù vuole fare con te. Se tu pensi che la tua salvezza è perché tu possa tornare a casa stasera e dire che questo è stato un bel messaggio, no. Gesù vuole che tu torni a casa stasera e dici: Mo'! Non è possibile, ho perso troppo tempo, basta piangere. Gesù è morto e ha vinto, ha sommerso la morte e ha asciugato ogni lacrima. Gesù è morto, ha vinto, ha sommerso la morte e ha coperto e cancellato ogni vergogna. Leggiamola, Giovanni, capitolo 4. È Gesù che sta attraversando tutta la zona di Israele, della Samaria, e in questo punto specifico, durante il viaggio, leggiamo dal verso 4, doveva attraversare la Samaria. Verso mezzogiorno, giunto al villaggio di Sicar, si fermò al pozzo di Giacobbe, situato sul pezzo di terra che Giacobbe diede a suo figlio Giuseppe. Gesù era stanco per il lungo cammino e si sedette sull'orlo del pozzo. Poco dopo venne a prendere l'acqua una donna samaritana e Gesù le disse: dammi da bere. In quel momento era solo, perché i discepoli erano andati al villaggio a comprare qualcosa da mangiare. La samaritana rispose sorpresa: come mai tu, giudeo, chiedi da bere a me che sono samaritana? Di solito, infatti, i giudei non rivolgevano nemmeno la parola ai samaritani. Gesù rispose: se tu sapessi che dono meraviglioso ha Dio per te e chi sono io, saresti tu a chiedermi dell'acqua. Ed io ti darei dell'acqua viva. Ma tu non hai né corda e né secchio, osservò la donna. E il pozzo è profondo. Da dove prenderesti dunque quest'acqua viva? E poi, sei forse più potente di Giacobbe, il nostro antenato? Come puoi darci dell'acqua migliore di questa, che ci ha dato lui, da cui lui stesso ha bevuto con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose: chi beve quest'acqua avrà sete, di nuovo. Chi invece berrà l'acqua che gli darò io non avrà mai più sete, per sempre. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente da cui sgorga vita eterna. Ti prego, Signore, disse la donna, dammi quest'acqua, così non avrò più sete e non dovrò più tornare qui a prenderne ogni giorno. Vai a chiamare tuo marito, disse Gesù. Ma io non sono sposata, rispose la donna con una risposta molto diplomatica. È vero, confermò Gesù, hai avuto 5 mariti e non sei sposata neppure con l'uomo con cui vivi ora. Signore, esclamò la donna, tu devi essere un profeta. Allora spiegami, perché voi giudei insistete nel dire che l'unico posto per adorare Dio è Gerusalemme, mentre noi samaritani sosteniamo invece che sia qui sul monte Garizim, dove adoravano Dio i nostri antenati? È venuto il tempo, donna, in cui non ci preoccuperemo più se adorare Dio qui o a Gerusalemme, perché l'importante non è dove noi adoriamo, ma come adoriamo. È spirituale e reale la nostra adorazione? Abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo? Perché Dio è spirito e chi lo adora deve lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio per adorarlo nel modo giusto. E questo Dio, è questo quello che Dio vuole da noi. Ma voi samaritani sapete ben poco di Lui, adorate ciò che non conoscete, mentre noi giudei lo conosciamo, perché la salvezza viene al mondo per mezzo dei giudei. E Gesù stava parlando di se stesso, di come la salvezza stava arrivando al mondo non attraverso il popolo dei samaritani, ma attraverso il popolo dei giudei di cui lui faceva parte. La donna osservò, beh, almeno so che verrà il Messia, quello che chiamano Cristo, e quando verrà ci insegnerà tutto. Allora Gesù le disse, sono io il Messia. E in quel momento arrivarono i discepoli e rimasero sorpresi di trovarlo a parlare con una donna, ma nessuno di loro gli chiese il perché o di che cosa stesse parlando. Fino a qui per il momento. Questa storia ci parla di un Gesù che è vivo. Ci parla di un Gesù che è vivo e che è disposto a fare qualsiasi cosa per incontrare te. È disposto a qualsiasi cosa per incontrare te. Immaginiamoci questa scena, no? Siamo in un clima desertico, è mezzogiorno, l'ora in cui quando siamo al mare ci ritiriamo perché il sole picchia, giusto? La donna, questa donna samaritana, in tutto il suo splendore, esce alle 12, sotto il sole cocente, per andare al pozzo, che sicuramente non era al centro della piazza come adesso, ma era un po' distante. Quindi si fa quella bella mezz'oretta, no? Di cammino, colleggiare, sotto il sole, si fa la prima sudata, arriva al pozzo, convinta che il pozzo era profondo, quindi lei doveva tirare la corda giù, tirare su la corda con dei secchi molto pesanti, riempire le giare, ricaricarsele, affinché bastassero fino al giorno dopo e rifarsi un'altra mezz'ora a casa. Intorno all'1:30 si sarebbe rimessa in cammino per ritornare a casa, quando proprio il sole è al tramonto, è freddo, c'è un'aria fredda, una brezza, no? Furbissima questa donna. Chiunque al suo posto, come noi, sarebbe uscito a mezzogiorno, no? No. La verità è che nessuno andava a mezzogiorno a prendere l'acqua dal pozzo. La verità è che quella donna si voleva nascondere, non voleva che nessuno la vedesse, non voleva essere vista, si stava nascondendo da tutto e da tutti, perché non voleva parlare di niente, non voleva raccontare le sue cose, non voleva che nessuno la vedesse. Eppure il suo desiderio di non essere vista da nessuno non ha impedito a Gesù di incontrarla. Si è nascosta da tutti, ma non si è nascosta da Gesù. Da questa storia impariamo che Gesù è vivo e che Lui ci accoglie. Ci accoglie nel segreto di quel posto dove tu non vuoi che entra nessuno. Non so voi, ma a volte io ho il mio angolino, no? Dove mi metto un po' così, e non voglio che nessuno mi vede. È in quella stanzetta del mio cuore dove io devo stare buono buono, dove io sono un po' piccolo, dove io sono un po' nero, sono un po' calimero, e nessuno mi ama, nessuno mi vuole, nessuno... Qualcuno mi ha preso, quindi questo non lo posso dire più. Prima nessuno mi prendeva e io... Gesù vuole venire questa sera in quel nascondiglio dove tu non vuoi far entrare nessuno. Gesù accoglie, Lui è vivo e questo vale per te. Perché te lo sei dimenticato? Perché continui a tenerti stretto quell'angolino dove tu hai paura, dove tu hai vergogna, dove tu non lo sai bene chi deve entrare. Gesù vuole venire là stasera. Gesù è vivo e lui accoglie. E questo vale per le persone intorno a te. Chi stai accogliendo? Solo quelli che ti piacciono? Solo quelli un po' simpatici, come me, no? Io sono molto simpatico. Solo quelli che ti fanno ridere, che ti dicono le cose belle, no? No, bravissima persona, mi fa sempre tanti complimenti. Oppure stiamo accogliendo anche chi non ci piace. Anche chi non fa come noi vorremmo. La verità è che Gesù quel giorno, a mezzogiorno, al pozzo, non avrebbe dovuto accogliere quella donna. Sapete qual era la preghiera, come iniziavano la preghiera nel popolo giudaico, gli uomini del popolo giudaico? Loro iniziavano la preghiera ringraziando Dio per tre cose, se erano uomini. Ringraziavano Dio di non essere dei pagani, cioè di non essere nati magari anche di un altro popolo, quindi tipo romani, tipo noi, no? Ringraziavano Dio di essere ebrei. Ringraziavano Dio di non essere nati cani, ringraziavano Dio di non essere nati donna. Purtroppo. Lei non solo era donna, era anche samaritana. Quindi non poteva assolutamente né parlare con un uomo, né parlare con Gesù che era giudeo, perché lei era samaritana. La verità è che a Gesù non gli importa niente. Non gli importa niente. Lui vuole incontrare. Lui vuole incontrare te. E lui vuole incontrare le persone intorno a te, attraverso di te. Sei tu disposto ad accogliere ognuno? Permettetemi di dire questa parola, fregandotene delle regole. Sei tu disposto ad accogliere sempre e a prescindere chiunque? Io voglio rendere molto pratico, perché io sono convinto che ci sono delle persone nella tua vita oggi che tu non riesci ad accogliere. E questo è normale. Non è quello che Gesù ha preparato per te, il tuo rimanere in quella posizione, dove tu dici io queste persone non le voglio accogliere e non me ne frega niente. E io voglio vivere in maniera molto pratica questo messaggio. Ho detto che lo facciamo insieme. Quindi voglio subito pregare. E con la luce accesa, tutti noi seduti, con gli occhi aperti, a noi non ce ne frega niente, giusto? Noi siamo qui perché Gesù è vivo, giusto? E se Gesù ci chiede qualcosa, noi siamo disposti a farla, giusto? Quindi se sei tu che sai che hai bisogno che Gesù accolga quell'angolino dove tu ti vai a nascondere, o ti aiuti, ti possa aiutare ad accogliere quelle persone intorno a te che per te è difficile, io voglio chiedere di alzarti in piedi. Come io sono in piedi qui davanti, perché io voglio pregare con te, perché tu domani mattina possa ricordarti che oggi ti sei alzato in piedi e che hai detto, Signore Gesù, io voglio sfidare tutto e tutti e io voglio permetterti di aiutarmi ad accogliere anche quel vicino che è un po' antipatico, anche quel collega che quando lo vedo vorrei pregare che l'Apocalisse solo e non Giovanni. Potete farlo adesso, se volete che qualcuno preghi insieme con voi. Signore Gesù, io ti ringrazio per chi si è alzato. Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu ci insegni e ci inviti ad accogliere ognuno. E io ti prego che noi possiamo vivere nell'accoglienza tua, perché tu sei vivo. E io ti prego che noi possiamo capire così in profondità che significa che tu ci hai accolto, da poter accogliere chiunque noi incontriamo. Questo io ti prego, Signore Gesù, che tu possa dare a noi quella forza per accogliere anche chi è scomodo, perché noi vogliamo che ognuno intorno a noi possa incontrare te, Signore Gesù. Grazie, Padre. Amen. Gesù è vivo e da questa storia impariamo che lui accetta. Lui accetta te così come sei. Lui ti accoglie e ti accetta. Ti accetta con tutti quei segreti inconfessabili che tu ti porti nella tua testolina. Molto spesso noi abbiamo paura anche di metterci in preghiera, perché abbiamo paura che Gesù ci possa fare quella domanda a cui noi non vogliamo rispondere. E quindi, siccome non vogliamo che lui ce la faccia, oggi saltiamo. Non ci sentiamo proprio di pregare, di leggere. Oggi è un po' così, una giornata un po' no. No? Chi ha quelle giornate un po' no? Perfetto, non sono da solo. Oggi è un po' così, no? Immaginate i sentimenti di quella donna. Era arrivata al pozzo e per strada forse non aveva incrociato nessuno. Come si avvicina al pozzo, vede questo, seduto. Con i capelli lunghi, era pure nazireno, tutto profeta, ma sei un po' agitata. Ho detto, ma speriamo che rimane di spalle, che non mi vede, che oggi non è aria, eh? Oggi non è aria. Quel mezzo ruzzulano con cui vivo, non ha capito niente. Stava un po', no? E Gesù la ferma. E Gesù le chiede da bere. E poi lei dà quella risposta un po', no? Quelle risposte un po' di circostanza. No, non sono sposata. Che fai? Cosa vuoi? E Gesù lì dice, ok, sì, qual è il problema? Hai avuto 5 mariti. Ora vivi con uno. Quindi volevi capire dove si deve adorare? Allora, mo ti dico io, si deve adorare, non ha importanza nel posto dove vai, ma è importante che tu, donna samaritana, adori con il tuo cuore e adori il Messia che sono io. Gesù non era per niente sconvolto da quello che quella donna portava di segreto nel suo cuore. Gesù non è sconvolto del tuo passato, del tuo presente. Lui ti accetta. Lui ti accetta perché sa che c'è di più. Sa che quello che tu sei stato fino ad oggi e quello che tu sei in questo momento non è quello che tu sarai con lui domani, una volta che tu l'hai incontrato. E sapete, ogni volta che io mi trovo a servire Gesù, che può essere quando vengo il sabato a lavare per terra la sala con il team dell'eccellenza, che può essere quando servo nell'accoglienza o in qualsiasi cosa, anche prima mentre venivo in chiesa, io dico sempre, Signore, ma tu mi hai visto? Io non sono un granché. Però tu sei degno. Tu sei degno. Io non sono un granché, non so perché tu hai scelto di voler predicare la tua parola attraverso di me questa sera, io non lo so. Ma tu sei degno. Sapere da dove vieni non deve necessariamente essere una cosa brutta. Sapere da dove vieni ti può aiutare a capire chi è Dio, a sapere che Gesù è vivo. E se io sono qui stasera e ti sto dicendo qualcosa, non è perché io sono bravo e ho capito tutto. E la mia vita è stata fantastica, dall'inizio alla fine. No, tutto l'opposto. È Gesù che è vivo. E io me lo ricordo sempre. Mi ricordo sempre che forse io non avrei scommesso su di me. Io non mi sarei fermato al pozzo se avessi visto me. Ma lui l'ha fatto. Questo vale per le persone intorno a te. Non stiamo amando veramente qualcuno se lo accettiamo, se lo accogliamo e poi lo critichiamo da dietro. Pensavo, mi era sembrato, e poi. Non stiamo amando qualcuno se prima lo accettiamo e poi lo giudichiamo. E quante volte ci capita? Quante volte mi capita nella mia vita di accogliere le persone e poi non accettare quella parte di quelle persone? Questa cosa proprio non l'accetto. Gesù ama accettando ognuno. E noi possiamo imparare da Lui, che è morto ed è risorto ed è vivo, ad accettare ognuno. E qui entri di nuovo tu in azione. E se tu vuoi che noi possiamo pregare questa sera, perché ci sono delle cose di te che forse tu hai paura che Gesù possa scoprire, lui le sa già. E lui le vuole, ti vuole lo stesso. È incredibile. Cioè, quando io ho iniziato a capire questa cosa e mi sforzo ogni giorno di capirla, il cervello va in fumo a me, perché io so come sono. E dico, ma com'è? Ma come? E io credo che stasera tu devi alzarti, perché sei rimasto troppe volte fermo a non accettare questa cosa di te o a pensare che Gesù non la può accettare. E invece Gesù la conosce già e tu non devi avere paura. Se tu ti trovi in questa situazione, io voglio invitarti ad alzarti in piedi, come io sto in piedi qui davanti, e lo puoi fare anche adesso. E se tu sai che ci sono delle persone intorno a te che devi accettare, che ci sono delle situazioni che hai accolto ma che non riesci ad accettare, questo è il tuo momento e io voglio pregare con te, perché Dio e Gesù che è vivo ti vuole dare la forza per accettare quelle persone, per accettare quelle situazioni. E lui ha asciugato ogni lacrima e lui ha vinto ogni vergogna. Per quello noi ci possiamo alzare in piedi, anche se non c'è la band che suona una cosa dolce e le luci sono accese. Perché noi non ci vergogniamo. Questa è la mia chiesa. Signore Gesù, io ti ringrazio. Io ti ringrazio perché tu hai accettato noi. Signore, grazie perché non ci hai accolto solamente, ma quando poi sei stato con noi, ci hai accettato, ci hai conosciuto. Hai visto quello che c'era nel nostro cuore e che non andava bene e lo hai accettato perché sapevi che c'era di più per noi. Signore, io ti prego che noi, così come siamo in piedi questa sera, possiamo sempre sapere che forse non siamo granché, ma che tu sei degno e che noi saremo sempre disposti a dirti di sì. E io ti prego di darci la forza di accettare le persone intorno a noi, di accettare quelle persone che ci fanno male, di accettare quelle persone che ci hanno deluso, di accettare quelle persone che continuano a sbagliare nei nostri confronti. Signore Gesù, noi da soli non lo sappiamo fare, noi da soli non lo possiamo fare, ma tu puoi. E io ti prego di darci la forza. Nel tuo nome santo, Signore Gesù. Amen. Gesù è vivo. E lui accoglie, lui accetta e Gesù sfida. E lui ti sta sfidando dall'inizio di questa sera. Spesso, anzi no, voglio farti questa domanda. Permetti a Gesù di dirti anche quello che non ti piace ascoltare? Questa è una bella domanda. Questa è una domanda da quei quiz che fanno il pomeriggio in TV. Molto spesso a noi piace stare con Gesù solo per quello che ci piace a noi, solo per quello che lui ci dice di bello, che ci darà una vita benedetta, che lui ha una vita abbondante, che lui ci ama, che lui è morto per noi. Però quando Gesù ci sfida a fare qualcosa che è un po' scomoda, là ci viene mal di pancia. Ci viene che non sappiamo bene bene, no? Se abbiamo fatto bene a dirgli di sì, se gli dovevamo dire di no, se non ha capito lui, no? Quando noi abbiamo questo atteggiamento, stiamo dicendo a Gesù che la nostra acqua è molto meglio della sua acqua e che la sua acqua, che è una sorgente di vita che porta alla vita eterna, a noi non ci serve. Questo è quello che noi diciamo. Se tu sapessi che dono meraviglioso ha Dio per te. Questo è quello che Gesù ha detto a quella donna. Questo è quello che lui vuole dire stasera a te. Se tu sapessi che dono meraviglioso ha Dio per te. Questo non vale solo per te. Questo vale anche per le persone intorno a te. Non essere sempre concentrato su di te. Alza i tuoi occhi. Guarda. Guarda chi ti è intorno. Ascolta le persone che sono intorno a te. Ama le persone intorno a te sfidandole ad incontrare Gesù. Ama la tua famiglia sfidandola ad incontrare Gesù. Ama i tuoi colleghi sfidandoli ad incontrare Gesù. Ama i tuoi amici di scuola, i tuoi amici di lavoro, quelli che sono nella tua comitiva, sfidandoli ad incontrare Gesù. Perché forse, se tu non li sfidi, nessun altro lo farà. Perché loro conoscono te. Da quando io ho conosciuto Gesù, c'è un verso che si trova nel Salmo 139 ed è la conclusione del Salmo. E Davide dice: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se in me vi è qualche via iniqua e guidami per la vita eterna, per la via eterna. E questa è stata sempre un qualcosa che mi ha colpito. Che Davide avesse avuto il coraggio di dire a Dio: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. E io avevo molto bisogno che lui mi investigasse. Avevo molto bisogno che lui conoscesse i miei pensieri, perché io li conoscevo e non andavano proprio bene. E io prego che questa sia la tua preghiera questa sera. Che tu possa non avere paura di dire a Dio: investigami. Che tu possa non avere paura di ascoltare quelle parole che sono scomode per te. Che tu possa avere il coraggio di dire: conosci il mio cuore, Gesù. Vedi, che cos'è che non va? Com'è che dobbiamo andare avanti per questa via eterna? Come la devo fare? Per questo io mi circondo di persone che possano sfidarmi. Non mi piacciono amici che lasciano il tempo che trovano, persone che non hanno quella, che non vedono in me quella fonte di acqua viva che Gesù ha messo e che mi sfidano a realizzarla. Per quello ho scelto la mia bellissima moglie. Perché lei ogni giorno vede in me quella fonte di acqua viva e mi ricorda che c'è qualcosa che io devo togliere, che io devo lasciare, che io devo cambiare, che io devo modificare per arrivare a vivere quella via eterna. E questo è il mio incoraggiamento stasera per te. Sì, quell'amico che sa sfidare, che sa guardare alla fonte di acqua viva che c'è nel cuore delle persone che è intorno. E se questo è il tuo caso, vuoi essere sfidato o vuoi imparare a sfidare le persone, io vorrei che tu ti alzassi in piedi, così come io sono in piedi adesso, perché io voglio pregare con te, perché non è facile sfidare. Sfidare gli altri e sfidare te stesso non è facile. Questa è una cosa molto difficile. Perché se tu sfidi e qualcuno non accetta la sfida che tu fai, poi non va bene. E non ti senti bene. Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu ci hai accolto, tu hai accettato ogni cosa di noi e tu ci incoraggi a sfidare. Signore, io prego che la nostra preghiera costantemente, ogni giorno, possa essere che tu possa investigare il nostro cuore, conoscerci, mettere alla prova i nostri pensieri e portarci per quella via eterna dove noi possiamo incontrare le persone intorno a noi e sfidarle a riconoscere te, sfidarle ad accettare te che sei un Cristo vivente e risorto. Nel tuo nome, Signore Gesù, io ti prego di dare forza a noi. E quando noi siamo stanchi, quando noi siamo delusi, quando noi siamo che stremati, che non vogliamo più sfidare, io ti prego che tu possa rialzarci per vedere quella sorgente di acqua viva che tu hai messo in noi e che tu hai messo nelle persone intorno a noi e per essere pazzi da volerla tirare fuori, Signore Gesù. Nel tuo nome, Padre, io prego tutto questo. Amen. Non c'è nessuno che Gesù non abbia incontrato, che lui non ha accolto, accettato e sfidato. Non c'è nessuno nella tua vita, intorno a te, che non debba essere accolto, accettato e sfidato ad incontrare Gesù. Nessuno ti deve passare sotto il naso. Nessuno. Sapete come si conclude questa storia? Si conclude così. Dal verso 28, la donna intanto lasciata la brocca si era precipitata al villaggio e diceva a tutti: venite, venite a vedere, c'è un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Messia. Questa donna che era uscita a mezzogiorno per non farsi vedere, non incontrare nessuno per strada, è corsa da tutti, diceva a tutti, forse pure a quelli che l'avevano giudicata, a tutti: venite. E la gente allora venne dal villaggio per vederlo. Nel frattempo i discepoli insistevano perché Gesù mangiasse. I discepoli non avevano capito niente. No, rispose Gesù, io ho del cibo che voi non conoscete. Chi glielo avrà mai portato? Si chiedevano i discepoli. Com'è? Siamo andati, non c'è nessuno, la do. Allora Gesù spiegò loro: il mio cibo è fare la volontà di Dio che mi ha mandato e completare la sua opera. Voi pensate che la mietitura non comincerà prima dell'estate fra 4 mesi, non è vero? Ebbene, guardatevi intorno. Ebbene, Chiesa, guardati attorno. Veri e propri campi di anime sono già pronti per la mietitura. Veri e propri campi di anime, persone intorno a te sono pronte. Sono pronte perché Gesù è vivo e non dipende da te. È lui che è vivo che le vuole incontrare. È lui che è vivo che vuole andare da loro. I mietitori ricevono la giusta paga per raccogliere le anime immortali per il cielo. Che soddisfazione per chi semina e per chi miete. In questo caso è proprio vero che uno semina e qualcun altro raccoglie. E qui parla ai discepoli e dice: vi ho mandato a mietere dove altri avevano faticato a seminare e avete raccolto i frutti della fatica di altri che hanno lavorato prima di voi. Molti abitanti di quel villaggio della Samaria credettero che Gesù era il Messia. Grazie alle parole della donna samaritana che raccontava: quell'uomo ha saputo dirmi tutto ciò che ho fatto. E i samaritani dunque andarono da Gesù e lo pregarono di rimanere nel loro villaggio ed egli accettò di restare per 2 giorni. Bastò quel breve periodo perché molti altri credessero in lui dopo averlo ascoltato. E dicevano a quella donna: ora noi crediamo, non solo per il tuo racconto, ma perché lo abbiamo sentito con le nostre orecchie. E sappiamo che egli è davvero il Salvatore del mondo. Questa è la parte migliore della storia, dove una persona accolta, accettata e sfidata ha portato una città intera ad incontrare un Gesù che è vivo. Dov'è la tua città? Qual è la tua città? Che cosa ne hai fatto di questa città che sta aspettando di sapere che Gesù è vivo? Che perdi a fare tempo? Non sai quella persona che stai per accogliere, il tuo averla accolta dove la porterà? Non sai accettare quella cosa di quella persona dove la porterà? Non sai sfidarla, a cosa la porterà? E Gesù lo ha detto: c'è qualcuno che semina, qualcuno che miete, qualcuno raccoglie quello che qualcuno ha seminato, qualcuno semina e qualcuno raccoglie e qualcuno miete e qualcuno raccoglie quello che hanno seminato gli altri. E spesso io vedo noi e vedo che viviamo, no, questo amore a breve risultato, no? L'amore a breve cottura, da microonde, dove incontriamo le persone e le accogliamo. Le accettiamo, ok? Le accettiamo perché Gesù ce le fa accettare. Poi, no, apriamo lo sportellino del microonde, le mettiamo dentro, 30 secondi, start. Ah, questa non ne vuole sapere niente. No, io ho pregato per accettare, io mi sono sfidato, l'ho sfidata, devo pregare di più, devo capire con Gesù se io posso accettarla ancora, perché tutto posso accettare, ma questa cosa no. Poi se quella persona invece dopo 30 secondi di cottura esce fuori una lasagna che non vi dico, è tutto merito tuo. No? Sei il più grande evangelista di questo mondo, perché no, non è così. E io prego che tu stasera, se questo è quello che è il pensiero che ricorre nella tua mente quando ti approcci a questo, io prego che tu lo possa lasciare, perché è una fortezza, è una fortezza che non ti permette di alzare gli occhi e di vedere che forse loro non devono accettare te, ma possono vedere Gesù attraverso di te. Ed è questo quello che conta, perché forse qualcun altro raccoglierà il frutto, forse non lo devi raccogliere tu. Quella donna che si era nascosta per tanto tempo, dopo aver incontrato Gesù, ha portato una città ad incontrare Gesù. E io credo che quando noi viviamo un amore a breve cottura, vogliamo portare le persone a incontrare noi. Non siamo disposti a portarle a incontrare Gesù. Perché sicuramente quella donna è arrivata in città, aveva avuto 5 mariti. Se noi l'avessimo incontrata al supermercato solo per i 5 mariti, già l'avremmo... Vieni pure a fare la spesa qua, ma no. No. Ad essere onesti. Io sono sicuro che lei è andata in quella città e si è fermata con tutti, ma ha avuto anche pesci in faccia. Ma lei non si è fermata. Lei ha sacrificato se stessa, perché Gesù è vivo. E lei ha vinto. Lei ha vinto quando gli hanno buttato i pesci in faccia, perché Gesù aveva vinto per lei. C'è un video che voglio farvi vedere e concludiamo. Prego la regia di mandarlo. Febbraio 2009, con la mia piccola videocamera, ero lì. E quando mi sono trovato circondato da 15.000 persone, io ho pensato a te. Ora togli le luci, togli gli schermi, togli tutte le cose, no? Che noi diciamo, 15.000 persone erano in quel posto, tutte insieme, perché Gesù è vivo, perché qualcuno aveva detto loro che Gesù era vivo e che Gesù le voleva incontrare. Guardati intorno. Secondo me siamo così vicini. Sapete quando io ho girato questo video dove ci trovavamo? In via Filzi. Alcuni di voi neanche sanno che cosa significa via Filzi. E io ho visto te, perché Gesù ha visto te. E io prego che noi questa sera possiamo uscire da questo posto coscienti che Gesù vuole arrivare ai nostri vicini, perché tu lo puoi, tu lo puoi. Sapete quanti eravamo il giorno del musical? Circa 700 persone, 21 dicembre di quest'anno. Non ci vuole assai. Ci vuole che tu sei quella donna che è stata accolta, che è stata accettata e che è stata sfidata. E che vai, vai e sai che Gesù è vivo e sai che ci sono le persone intorno a te che lo vogliono incontrare e glielo dici. Sì? Ci vogliamo alzare in piedi? E adesso è il momento della Santa Cena, della Cena del Signore. E io so che abbiamo sforato di 7 minuti, però io so, e voglio incoraggiare noi questa sera, e voglio invitare l'accoglienza già a prepararsi per questo, voglio invitare noi questa sera a vivere il momento della Cena del Signore, non per noi, magari lo facciamo sempre per noi, per le nostre situazioni personali, per riconoscere che Gesù è morto per noi, per riconoscere che Lui è vivo nella nostra vita. Io voglio incoraggiare noi stasera a vivere la Cena del Signore per le persone che ancora non lo conoscono e che sono nella nostra vita, per i tuoi vicini. Prega per loro questa sera. Prega che la prossima volta che noi avremo la Cena del Signore tutti insieme, loro saranno qui con te. Prega per le persone che tu sai che devi accettare, per cui ti sei alzato, ma che è difficile. Prega per loro e fai che quel sacrificio che Gesù ha fatto sia un sacrificio vero, concreto e valido, che tu vivi per le tue cose di ogni giorno. Perché questo è quello che Gesù ci insegna nella sua parola. Per questo noi viviamo la Santa Cena, per ricordare che Lui ha sacrificato la sua vita e ha vinto. E quando prendi quel pane e prendi quel vino questa sera, non viverlo per quello che sono le tue situazioni, ma vivilo per le situazioni delle persone che non conosci, perché loro hanno bisogno. Sì? Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo ringraziare perché tu sei vivo e perché tu vivi e vivi nel nostro mezzo. E io ti prego che questa sera, attraverso questo pane e attraverso questo vino, noi possiamo ricordare che tu hai sacrificato la tua vita per noi, che tu sei morto e hai vinto, e che questo è il destino che tu hai preparato per noi. Un destino dove la morte è sommersa e dove tu hai vinto e dove la tua vita viene fuori. E io ti prego che questo possa essere la posizione che noi prendiamo questa sera, che possiamo prenderla non solo per noi stessi, ma che possiamo scegliere di prenderla per le persone intorno a noi, che possiamo nominarle, che possiamo dire i loro nomi, che possiamo confessare la salvezza che tu hai preparato per loro. Te lo chiedo nel tuo nome santo, Signore Gesù. Amen. Amen. Partecipiamo alla Cena del Signore durante un canto. E se tu devi ancora scegliere che Gesù entri nel tuo cuore, che Lui sia il tuo personale salvatore, allora io voglio invitarti a venire qui davanti, dove sarò io, perché io voglio pregare con te. E mentre gli altri partecipano alla Cena del Signore, noi possiamo vivere questo momento dove io ti posso spiegare forse che significa quello che stiamo per fare e come tu lo puoi arrivare a fare. Sì? Sì?